Palla Spicchi con Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti, Gigi Borghi in redazione, Fabio Cantadoro in regia, Flavio Suardi qui vicino a me. Ciao Flavio. Ciao Carlo, buongiorno a tutti. Coach Dan Peterson naturalmente c'è, ciao coach. Ciao amici sportivi, sono in macchina ma vi sento lo stesso perfettamente. Fantastico. Una delle puntate più, una puntata cult della scorsa stagione di Palla Spicchi fu quella in cui ci fu protagonista grande serbo Saša Djordjević. Allora abbiamo deciso di riprovarci. Ciao Saša. Ciao Carlo, buongiorno. Ciao Flavio. Grazie per essere tornato con noi. 800 24 00 24, il numero verde per le telefonate, i messaggi 349 238 6666. E partirei da una coppa vissuta questa settimana sulla strada, piena di rabbia in realtà, dopo la gioia della vittoria di Roma a Vitoria. Però Siena perde, ma poteva vincere ad Atene. Ci sta la sconfitta con il Pana nei numeri, grande potenza europea, però Siena poteva vincere. Milano aveva già vinto a Madrid, più 5 a 50 secondi dalla fine, e invece ha perso. Avellino ha capito come si fa e quantomeno una gioia ce l'ha data ieri sera. Coach, come fai a perdere con 50 secondi da giocare e 5 punti di vantaggio? L'ho visto anche io, come certamente l'ha visto anche Saša, quindi veramente un regalo, grande come regalo, con fiocchetto, tanto per dire, però contro il pressing della disperazione non hanno gestito bene. E qui mi hanno detto che Vitali è un playmaker, e io penso in futuro lo sarà, ma non lo è ancora, cioè deve fare un po' di scuola ancora contro il pressing prima di poter attaccare con grande sicurezza, perché la prima qualità del playmaker che lui deve trasmettere alla squadra, la fiducia che non perderà la palla contro il pressing, non è tutto colpa di lui, sì, è chiaro, ok? La squadra semplicemente non ha attaccato bene il pressing, hanno fatto dei regali, tutto lì, però anche Vitale deve far scuola di questo, prendere lezione e migliorare. E abbiamo qua uno dei più forti playmaker della storia della pallacanestro europea, eccolo lì. Ma sono d'accordissimo con coach. Ciao coach. Ciao Saša. Ciao. È la prima cosa che ti dicono: la palla vale l'oro per te, quindi non perderla mai. A me addirittura uno dei miei primi maestri, ex giocatore della nostra nazionale, Slavnic, mi chiamava Giovanni, che lui conosceva un venditore all'ingrosso dei palloni di pallacanestro in Italia, e quindi mi ha dato questo soprannome Giovanni, perché io all'età di 16 anni perdevo i palloni e quindi mi prendeva in giro così, provocandomi di diventare, come chiamava lui, un playmaker di banca svizzera, tenendo la palla nelle braccia, diceva, diventa come i soldi nella banca svizzera, e da lì sempre gli allenatori ti cercano di trasmetterti questa cosa, come ha detto giustamente Dan, non perdere il pallone. Coach, mi sa che ce l'ha fatta il vecchio Moka Slavnic, aveva ragione. Slavnic, non so se quante volte Saša ha visto Slavnic giocare, ma lui era più di un playmaker, era un allenatore in campo, una grande personalità, cioè, era un personaggio, lui lui giocava con i campioni come Čosić, come Dalle Pagas, come le altre, e se c'era da dire qualcosa a loro, lui è più piccolo di tutti, gli diceva in lettere chiare, ok, per dire qui comando io, la palla ce l'ho io, non mi rompete le palle, cioè lui era veramente questo qui, cioè, quindi playmaker sono due qualità a mio avviso playmaker, prima la cosa è la personalità della persona, deve avere la personalità del playmaker e poi ovviamente la tecnica del playmaker, questo, però prima la personalità, ovviamente Saša aveva questo qui, e anche tutti i grandi, Mike D'Antoni tanto per citare un altro, ha avuto Charlie Caglieres alla Virtus Bologna, questi avevano questa grande fiducia in loro stessi di non sbagliare. Assolutamente, voglio aggiungere solo un'altra cosa, ma tu sai coach che la personalità ti regalano, anzi te lo guadagni te prima e soprattutto con i tuoi compagni di squadra, e da quella personalità parte da loro, che se loro te la riconoscono sei arrivato a un buonissimo punto dove tuo allenatore e i tifosi saranno contenti. Quindi Moka Slavnic, ci hai nominato tre personaggi con quali io li ho visti tantissimo da giovane. Mio papà allenava Moka Slavnic e Stella Rossa, io ho cominciato così a guardare e a seguirla a pallacanestro, nonostante al giovane età di 5-7 anni ho scelto Partizan chiaramente, non ho sbagliato. Però Čosić e Dalle Pagas hai nominato due grandissimi Hall of Fame, chi sono stati, mandava Slavnić. Esatto. O Slavnić di turno, in senso era proprio il ruolo di playmaker che si rispettava senza dire niente, ma proprio doveva guadagnarselo sul campo. È una delle cose su quale ogni giocatore dovrebbe partire, guadagnarsi il rispetto dei propri compagni. Sasha, forse questo rientro appena di Vitali, lui non ha il primo anno a Milano, infortunato, rientra in questa gara importante, forse non ha avuto il tempo materiale per fare questo, hai detto tu, conquistare i compagni, forse non ha avuto tempo per farlo ancora. Assolutamente, assolutamente sono d'accordo con te. Luca è un giocatore sul quale progetto Milano doveva partire, e giustamente che parta. Ho letto una intervista proprio adesso sua prima della partita, dicendo che lui diceva che la stagione di Milano, possiamo dire che cominciava adesso. Sbagliatissimo, sì. La stagione di Milano ha cominciato il giorno dopo la fine della ultima stagione. La sua stagione comincia adesso e deve cominciare con i passi giusti, non più grossi del dovuto. Nessuno si aspetta che lui si prendesse tutta la responsabilità di tutto, ci avrà il suo momento, però poco a poco. Ovviamente la scelta di lasciarlo un po' così in campo abbastanza minuti, soprattutto quelli ultimi, è tornato da poco da un infortunio, non è solo per lui stesso ma per i meccanismi anche soprattutto in attacco, ci poteva stare qualcun altro in campo, sì. almeno coach, un altro playmaker che io ho visto dal mio punto di vista, un altro playmaker in campo ci stava. Sì, assolutamente. Io volevo approfittare del fatto che ci siano qua comunque due allenatori per chiedervi questo e passare un attimo all'argomento Siena. Pianigiani ha detto: quella con il Panathinaikos è una sconfitta che non mi fa arrabbiare. Io, vedendo la partita, sono anche abbastanza d'accordo con lui. Ok, Siena poteva vincere quella partita, però quando McIntyre tira 1 su 9 da 3, quando Storrock tira 2 su 11 da 3, è chiaro che arrivare lì a giocartela fino in fondo, poi la perdi, però magari sono sconfitte un po' più in dolore rispetto alle altre. Quando Siena tira, guarda, io ho un'idea diversa su questo, però cioè, è chiaro che ogni sconfitta, cioè, come per Vitale la sconfitta deve portare una lezione, come per Siena questa sconfitta deve essere, dove abbiamo perso la parte, come abbiamo perso, cosa dobbiamo fare per non perdere ancora, se li affrontiamo nel ritorno a Siena, se li vediamo anche più avanti nella top 16, cioè devono studiare cosa devono. Poi ovviamente Obradovic farà la stessa cosa con Panathinaikos, però Siena, che ha perso la partita, deve trarre lezione, assolutamente quello che ha fatto Siena, perché se non mi ricordo male Siena aveva vinto l'anno scorso ad Atene, quindi il Panathinaikos, sì, e coach Obradovic ha fatto quello che adesso farà Siena sicuramente. Guarda, Carlo ha detto Siena quando tira troppo da tre perde, non è che Siena magari voleva tirare troppo da tre, ma c'è anche una certa squadra con delle qualità difensive enormi, soprattutto di tre giocatori esterni come Diamantidis, Panulis e HadžiVretas, dove ti veramente lascio stare Jasikevičius. A proposito di playmaker, no? Sì, esatto. No, lo lascio stare. Loro. Sì, lascio stare dal punto di vista difensivo, però dico, gli altri sono dei mastini pazzeschi, quindi ti costringono di fare queste. E di fatto sono arrivati alcuni errori anche senza toccare il ferro, proprio per questa pressione. Si era rientrati in partita quando ha cominciato a sviluppare transizione, dimentica di tiro da tre punti, difesa contropiede, due palloni recuperati da Stonrook. È rientrato in partita così quando la stava perdendo, poi ha ripreso il filo del tiro da tre punti, e in generale nelle grandi partite Siena quando abusa del tiro da tre punti non è mai un bel segnale. Coach, allora è una squadra molto completa, possono con McIntyre penetrazione scaricare altre cose, ma Panathinaikos mette c'è Obradovic in panchina, io ritengo che Obradovic sia i due migliori allenatori in Europa sono Messina e Obradovic, questa è la mia valutazione. E il migliore nel quarto gioco è Obradovic, perché lui fa aggiustamenti piccoli durante la partita, risolve questo, risolve, e alla fine quarto tu non hai più attacco, perché lui ha indovinato cosa fai, dove andrai a fare, e lui piccoli aggiustamenti durante la partita, lui è il migliore in Europa a fare queste cose, e certamente questo è pesato su Siena. però Siena Stonework non è una garanzia da tre, 2 su 11 non mi stupisce, cioè quindi lui deve misurare, centellinare queste cose dei tiri da tre e non esagerare. Ci sono i McIntyre, gli altri che tirano benissimo da tre, però Stonework non è esattamente il terminale per tiro da tre. Sono d'accordo? Oh, assolutamente, sul fatto di quello che ha detto su due migliori allenatori d'Europa, non ci sono dubbi anche per me, assolutamente. Poi conoscendo Obradovic, anche personalmente è assolutamente quello che gli hai descritto, tanti aggiustamenti, letture delle situazioni, c'è un validissimo assistente greco che parla la sua lingua serba, c'è uno scouting benissimo, quindi conoscono a memoria al dettaglio, ultimissimo dettaglio, tutte le qualità dell'avversario che vanno a incontrare. Comunque è uno che legge, vede, capisce pallacanestro anche da un giocatore che ha giocato in altissimi livelli, quindi aggiustamenti durante una partita è anche un po' il nostro marchio di diciamo dalla regione da dove arriviamo, quindi i vecchi jugoslavi facevano quello, leggendo le situazioni e giocando. Poi vorrei aggiungere un'altra cosa, Siena ha completamente giocato un'altra partita contro la Fortitudo 3-4 giorni prima, ma proprio per il fatto che gli è stato anche lasciato di fare soprattutto il gioco in transizione, dove hanno avuto tantissimi tiri facili, tantissimi lay-up in campo aperto, vari Kaukenas, Sato, anche stesso Finlay che ha fatto 3 volte coast to coast, dove hanno veramente distrutto l'avversario proprio in questa transizione offensiva veloce, e d'altra parte c'era Fortitudo che quella era la parte del gioco più debole in quella giornata, proprio transizione difensiva. E poi domenica abbiamo Roma contro il Siena. Oh, bellissimo, guarda, io 2 squadre di livello europeo secondo me, l'anno scorso ne avevamo una che era Siena, adesso penso che l'Italia abbia 2 squadre a livello di Eurolega. Guarda, la vittoria di Roma a Tau l'ho guardato io, veramente meritato, avessero perso sarebbe stato ingiusto, l'hanno meritato in pieno. Assolutamente sono d'accordo. Poi aggiungo un'altra cosa, quest'anno Roma ha fatto la creazione della sua squadra guardando anche l'avversario che va a incontrare in finale. È ovvio che ha messo tantissimo atletismo nelle guardie, che giustamente quello che gli serviva, quello che gli serviva di affrontare l'atletismo di Siena, che è enorme nella fascia esterna, e poi ha aggiunto un risolutore, un talento pazzesco che può leggere le situazioni nelle partite dove ti conta un pallone, soprattutto offensivo, come Becirovic. Poco a poco va crescendo Brandon Jennings, perché c'ha i lampi di talento, però la cosa più buona di Roma è che non ha messo questa grossissima scelta che ha fatto, non ha messo tutto sulle spalle di Jennings come ha fatto giustamente Bodiroga, ha solo copiato, non solo, ma ha copiato più o meno l'idea di Tanevic nella sua epoca, quando ha messo un grandissimo talento, un ragazzo di 18 anni come straniero in campionato italiano, però affiancandoli con grandissimi personaggi, grandissime persone, soprattutto suoi amici di generazione che sono già stati cioè una squadra di più o meno campioni, affrontando anche un certo, non so, Alex English, poi Rolando Blackman. Quindi Bodiroga non aveva un certo peso nella sua età da 19 Nando anni, Gentile, 20. Sasha, Nando assolutamente, ma Nando era la chiave, era la mente di quella squadra, leader assoluto e il miglior giocatore sicuramente, proprio per quello. Anzi, parli di Caserta. Di quella squadra, Trieste, sì, Trieste, ma poi Milano. Ma Boscia ha fatto stesso con Nando Esposito a Caserta, mettendoli altri paesi africani. Quindi sono queste cose dove uno veramente può leggere, imparare, vedere come fare e costruire la cosa. Penso che Roma è azzeccata, posso andare avanti. Lasciamo passare un altro mese, ma in questo momento, non so Dan se sei d'accordo con me, più fame Roma, quindi vedo campione d'Italia Roma, e lo dico a questa data qua, nonostante l'anno scorso a questa data ho detto che Siena vinceva la Eurolega. L'avevo detto anch'io. Non avevo dei dubbi, gli è mancato Kaukenas, che quest'anno è straordinario nell'impatto, e gli è mancato nella Final Four, però quest'anno vedo Roma perché c'è questa fame, c'è questa voglia di vincere, e tu lo sai, è molto più difficile mantenersi nell'alto che aggiungere questo obiettivo partendo da una posizione più bassa. Coach. Ma adesso Roma minaccia Siena in campionato e minaccia almeno top 16 in Europa, e non voglio sputare un giudizio troppo presto, e devo aggiungere quello che ha detto Sasha, che Jennings è la prima volta che vedo lui determinante senza essere la stella, ha fatto quello che doveva fare, ha aggiunto velocità, ha giocato difesa, non ha fatto forzature, non ha fatto scelte sbagliate, è stato un giocatore di utilità per loro. Prima avevo qualche dubbio, adesso non ne ho più. Ciao coach, grazie, ci sentiamo venerdì. Ciao ragazzi, alla prossima, ok? Ciao coach. Ciao Sasha. Ciao, un abbraccio. Ciao. Palla spicchi. Adesso torniamo, dunque, a proposito di messaggi, lo giro a Sasha, grandissimo Sasha, professionista incredibile, è arrivato al primo allenamento a Milano e sapeva già gli schemi, scrive Michele, è vero? Sì, guardando la partita e avendola come avversaria ovviamente ti prepari, però sì, mi ci serviva poco per imparare, però la cosa più facile da imparare era quella. Difficile giocare. Adesso vorrei parlare un po' con lui di Milano, anche perché abbiamo idee abbastanza simili. Luciano, provincia di Brescia, buongiorno. Buongiorno, innanzitutto complimenti a voi e ai vostri ospiti. Grazie. Ascolti, volevo chiedere due cose. Una era un commento sul passaggio di Boniccioli alla Virtus. Io rispetto molto professionalmente Boniccioli, però se in estate la sua scelta è stata quella di andare via da Avellino per stare vicino alla famiglia e poi a novembre passa alla Virtus Bologna, cioè, ho capito che Bologna, Trieste è più vicino come situazione, però dire, con i mezzi di trasporto che ci sono oggi. E poi la seconda cosa è che secondo me Siena esce sconfitta, però da una grande squadra, perché il Panathinaikos ha dei difensori, come diceva giustamente Giorgio, e soprattutto Diamantidis, che io non so se c'è un giocatore in Europa che sappia difendere meglio, perché quando difende così è veramente impossibile giocarci con. Grazie a lei Luciano. Guardi, facciamo così, sulla prima osservazione lo chiediamo direttamente a Boniccioli più tardi. E sulla seconda, Sasha, cosa dici? Sono d'accordo sul fatto di Diamantidis, assolutamente un giocatore che mi piace tantissimo, un giocatore al quale Obradovic non può giocare senza, a prescindere dagli altri campioni che ha, lui è il suo punto di riferimento, punto di partenza e di finitura, è un leader, una stella dentro di un concetto di tante stelle, però una stella con personalità che esprime con la sua maniera di giocare. Ci sono diverse maniere di esprimersi sul campo, soprattutto spogliatoio, in concetto di una squadra, ma questo che sta facendo lui sta facendo capire a tutti quanti quanto è importante essere umile, essere sempre pronto a giocare per la squadra, aiutare i compagni a fare le cose sporche, ogni tanto prendersi responsabilità, anzi tantissime volte, però con i suoi mezzi sfruttati al massimo, non andare sopra di quello che ci sa fare in maniera migliore e lo mette sempre al servizio della squadra, quindi non va mai oltre a sparare, non so, 10 tiri da 3 o quello che è, gioca la sua pallacanestro sempre, e quella è la sua qualità e anche la sua meccanismo di societario, diciamo, allenatore, il suo staff e ovviamente tutta la Panathinaikos. E dicevamo prima che questo è il tipo di giocatore che manca un po' a Milano, per tornare al discorso di partenza, cioè Milano non ha il classico giocatore a cui affidare la palla nelle situazioni che scottano, o comunque con questa struttura sta dimostrando di non averlo, magari non è che l'abbiano costruita allora, così apposta, visto, credo. C'è Paolo da Vicenza in linea, un attimo solo Paolo, visto che siamo in argomento, allora togliamoci tutti i rospi dalla gola, Sasha lo sa bene, io l'ho detto mille volte a questi microfoni, Milano un po' la conosco, siamo coetanei di Sasha, abbiamo visto gli stessi giocatori, poi lui ha fatto quello che ha fatto. Milano vuole le stelle, vuole i leader, vuole i guerrieri, quindi Milano vuole qualcuno che sia il capo, carismatico, qualcuno che sia stella, e poi vuole gente che non ha paura di rompersi la faccia buttandosi per terra. Milano ama queste squadre. Questa squadra non è a immagine e somiglianza di Milano, questa è una buona squadra che però non ha la stella e non ha quello che Milano vuole, quello che Milano chiede. Questa è la mia idea, l'ho detta mille volte, non so cosa ne pensa Sasha. No, Posso dirlo anche io, sono d'accordo con te su certe cose che stai dicendo. Penso che questi ragazzi sono buonissimi giocatori, tutti quelli che hanno scelto, però c'è una differenza tra i campioni e i buonissimi giocatori. Ovviamente è ancora pronto, questo è sulla carta, sono giocatori validissimi che qualsiasi allenatore li vorrebbe. Ovviamente a me sempre piacciono nel sport di gruppo, nel collettivo, mi piacciono the special one, uso quella di Mourinho perché qualcosa del speciale, veramente ci deve essere. Questo giocatore che trasmette questa sua specialità verso i tifosi, è veramente siamo in ricerca e bisogna che... bisogna portarlo a Milano, portarlo. È così assolutamente a più Milano, che in un altro posto a Milano, perché Milano è abituata in tutte le fasce della vita di tutto, è abituata a tantissime stelle, dal cinema, dal calcio, da musica, da tutto. Cioè Milano vuole il top, e quando porti al città di Milano il top, Milano risponde e gli dà questo calore, perché ovviamente ogni città ha suo carattere. Se sempre si parte su un presupposto che questo veramente ti può dare tanto al tifosi, alla propria squadra, della sua qualità, portando anche a vincere certo tipo di partite, come li avevano anche persi 4-5 per un punto o due. Quindi Milano cresce insieme ai suoi tifosi, Olimpia cresce insieme ai suoi tifosi e diventa quello dei playoff. C'è. Perché i tifosi di playoff di Milano sono veramente un'altra cosa, perché vengono, sono vicini alla squadra, fanno ambiente e tutto quello, proprio per quello, perché sono abituati alle grossissime partite, a grandi titoli, a grandi finali, e quindi le partite normali devono essere qualcosa di grandi personaggi. Allora Sasha, negli ultimi 20 anni, lo sai meglio di me, c'è stato D'Antoni, dopo D'Antoni c'è stato Djordjevic, poi è arrivato Stefano e l'ultimo scudetto, Nando Gentile e Bodiroga. Serve, a mio giudizio, serviva per cominciare a costruire questa squadra un grande leader, un grande playmaker. Sì, sì. Visto che prima abbiamo parlato... È quello che abbiamo detto finora. Parlavamo di Jasikevičius, perfetto. Sì, uno come Jasikevičius. E anche secondo me ci vuole una struttura societaria oltre che tecnica di un certo livello, cioè devi presentare a Milano una squadra con un determinato genere di ambizioni. Devi conoscerne la storia, Flavio, devi sapere cosa la gente di Milano vuole, perché la gente di Milano, poi gli dici quest'anno facciamo semifinale, va benissimo, però devono sognare con una stella, perché altrimenti rimane sempre una squadra anche buona, anche futuribile, anche vitale, grande prospetto, bella squadra, ma non la squadra che questo ambiente vuole. Paolo Vicenza, poi ci fermiamo un attimo. Paolo? Pronto? Salve, dica. Buongiorno, grazie per avermi richiamato. Io sì, volevo intervenire su Boniscioli, sentivo poc'anzi che interviene in trasmissione. Sì. Ecco, io sono di Avellino, presumo come tutti gli avellinesi, sono rimasto profondamente deluso dalle affermazioni fatte da Boniscioli. Ecco, vorrei capire se il riferimento alle caverne era un riferimento fatto alla città di Avellino o cosa lui intendesse per caverne. Detto questo, io volevo appunto una vostra impressione sulla prestazione di Avellino. Ritengo che Avellino sia pian piano amalgamandosi come squadra. Io ieri ho visto un grosso best e mi auguro che possa qualificarsi. Ecco, volevo una vostra opinione in tal senso. Un minimo di probabilità ce la può ancora avere con due vittorie di fila. Vabbè, best non lo stiamo scoprendo sì, oggi, no Sasha? Ma poi sì, assolutamente, best è un grandissimo grandissimo campione, uno dei migliori playmaker. Non per le prestazioni, per i numeri, ma proprio per personalità, proprio per quello che trasmette ai suoi compagni di squadra, poi anche alla gente e anche ai tifosi propri, a tutta la società. Avendolo è veramente un lusso. Quello che mi auguro per Avellino è di non fare dei conti, non cercare la matematica a questo punto, ma cercare di seguire i consigli dell'allenatore, lavorare su Amalgama e mettere dentro Sly, che ha avuto questa partenza un po' difficile, che è un giocatore con tantissime qualità che gli può aiutare tanto. Mi auguro che Warren riesca a seguire in questi passi, che è veramente diventato un giocatore di un certo tipo di livello, partendo anche dall'esperienza che ha fatto a Cibona vari anni. Quindi con questo leader è una crescita lenta, come lo è normale per qualsiasi pivot che più avanti prendono la, la forma. Williams sta diventando una certa, un giocatore di, che sbilancia, e che è proprio quello che cercavano, perché è un giovane, un corpo imposante, un corpo che veramente nella, nella pallacanestro di oggi, soprattutto quella di Eurolega, può avere, può aiutarli tanto. Ecco, una cosa che magari è importante avere, averne un giocatore di stazza, un giocatore di queste qualità atletiche, proprio per anche possibilità tattiche, certo, in varie parti della, della partita o stagione, di usare e sfruttare queste, queste qualità. Io li vedo molto bene, Avellino. Anch'io. Veramente bene. Palla spicchi. Eccoci tornati, sempre con noi Sasha Georgievic per tutta questa puntata. Flavio Suardi naturalmente, 800240024 numero verde, così ci siete anche voi. E come annunciato prima c'è anche lui, Matteo Bonicioli, nuovo allenatore della Virtus Bologna. Coach, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, un grande saluto a Sasha. Ciao Matteo, in bocca al lupo per tutti. Grazie. Complimenti. Grazie tanto. Coach, mi sembra giusto che prima abbiamo ricevuto telefonate di tifosi avellinesi, di gente di Avellino. Io ho rinviato a questo momento la, la risposta, e ci terrei che la, la dessi tu sul, guarda, sul tuo addio ad Avellino, perché mi sembra giusto che lo faccia Matteo Bonicioli. Allora, io ho scritto oggi una lettera sul quotidiano, su un quotidiano di Avellino, che molto cortesemente mi ha dato l'opportunità di chiedere scusa per una parola non appropriata che ho usato riferendomi alla temperatura che noi abbiamo avuto per tutti i mesi invernali interna al palazzo. Palazzo che grazie alle imprese della squadra e della società dell'anno scorso è stato sostanzialmente riedificato in maniera fantastica, come bene hanno fatto di Ercolino tutto quello che hanno fatto fino a questo momento. Ora è chiaro che se, diciamo, come ho peraltro scritto anche in questa lettera, una parola sbagliata, di cui io ho chiesto scusa, in un paese nel quale persone molto più importanti di me dicono e smentiscono con una certa frequenza il giorno dopo, e una scelta personale assolutamente non discutibile, cioè quella di avvicinarmi a casa rinunciando a lavorare in un posto dove sono stato bene per 2 anni e dove credo di aver in qualche modo contribuito per quello che mi competeva, cioè per il ruolo di allenatore e di general manager, alla, ai successi che Avellino continua ad avere grazie a una società molto solida. Se una parola sbagliata pronunciata in un discorso completamente e riproposta ai cittadini di Avellino assolutamente fuori contesto può cancellare 2 anni di attività, di lavoro, di successi, di insuccessi, di vittorie, di sconfitte, onestamente io ne sono già molto amareggiato. Sì. Perché non capisco questo astio e questa credine a fronte del fatto che, a meno che qualcuno non desiderasse, che io dopo aver lasciato Avellino non lavorassi più. Ma mi sembra onestamente anomalo, così come anomala mi sembra diciamo la una situazione dove, date le dimissioni, ribadisco, rinunciando a una società importante che avevo contribuito a portare in Eurolega, a un salario importante per nulla in cambio, perché molti hanno pensato in questa Italia delle dietrologie che me ne andavo da Avellino perché avevo un contratto in mano da qualche altra parte. Questa microstoria, se mi si è permesso usare una parola un po' importante, cioè la storia di questi 5 mesi ha testimoniato che io mi sono andato a Avellino perché avevo esigenze mie personali che non accetto che nessuno discuta. A fronte di tutto questo, se si voleva che io non lavorassi più, bastava dirmelo. Sì. Matteo, posso permettermi di fare una paragone con una cosa personale che mi è passata, senza giudicare le tue scelte o giudicare quelli che sono stati amareggiati ad Avellino, che sono... Ovviamente tu hai fatto un grandissimo lavoro lì, 2 anni, e tutti siamo... coscienti di, possiamo solo, congratularsi con te per i risultati che hai ottenuto con Avelino e secondo me anche loro, però quando si rompono i grandissimi amori rimane sempre questa delusione grossa che si accentua a livelli stratosferici e lo sarà sempre così. Nonostante fai tutti sti giri eppure loro rimarrà sempre una delusione per i tuoi tifosi fino ad non so giugno e comunque la tua ragione è giusta, è giustificabile tutto quello, rimarrà sempre così e tu lo sai meglio di me, tu hai fatto giustamente una lettera, l'hai fatto bene. Io sono stato non scaricato, però non hanno continuato il mio contratto a Barcellona dopo 3 anni, 2 scudetti vinti, una coppa, Corac, un altri 2 o 3, non mi ricordo più, intanto fa niente. Sono stato proprio, cioè avevo un'opzione, l'allenatore è arrivato, mi ha detto guarda, no, noi non contiamo con te, vogliamo un playmaker più alto, vogliamo Rigodò, ho detto guarda, lo accetto benissimo, nessun problema, però avevo, tu lo sai come sono i giocatori, hanno un certo di amore e tutto quello, non avevo nessun contratto, niente, sono stato proprio libero, non avevo le offerte, niente, perché me l'hanno comunicato un po' tardi così e nessuno voleva prendere questa mia, non so, nessuno mi offrirà qualcosa che mi gratificava, quindi ero completamente diciamo rotta la relazione da parte della società. Dopo non so 2 o 3 mesi viene Scariolo e a ottobre, fine ottobre, mi fa un'offerta per Real Madrid, l'accetto, vado lì e quando torno a Barcellona sono io il cattivo, il cattivo. Certo. Esatto, per dirti, ti aspetto, cioè ti capisco a te e continuerò a capirti perché ti troverai ancora peggio secondo me che adesso. Sì. Quando torni lì, ma non c'è ombra di dubbio, esatto, di dubbio. Senza che parliamo, no, vedi, qua le altre cose cosa... ma capisco anche loro perché il gioco di sport è quello, finisce, l'amore che finisce, l'amore Matteo che... Non, solo volevo vorrei soltanto chiarire una cosa, sono assolutamente d'accordo con un uomo che ho avuto la fortuna di conoscere quando era giocatore e poi da collega, ed un uomo di grande saggezza e di grande cultura. Io dico soltanto una cosa, c'è una sottile differenza che però credo sia significativa, che io Avellino l'ho lasciata, non l'ho tradita. E che quando ho lasciato Avellino non l'ho lasciata per un altro amore, ma l'ho lasciata per stare con i miei figli. Sì, ma questa mi permetto di dire che è una differenza sostanziale, perché voi sapete meglio di me che molto spesso in questo mondo, che non è un mondo facile, perché al di là i tifosi vivono di emozioni, le società vivono di investimenti, di budget, di calcoli, di mecenatismo, quindi la scelta è stata una scelta difficile, perché ho rinunciato all'Eurolega, a vivere in una città nella quale ho vissuto bene e in una società nella quale avevo un ruolo importante, e ho rinunciato a allenare un club importante che sta continuando a dimostrarsi importante per nulla, perché io ho fatto per 5 mesi il consulente di una squadra di B2 a Trieste, sì, a Trieste, sì, casa, sì, mia, sì, casa tua, sì, ma no, ho rifiutato per coerenza con la scelta fatta 5 mesi fa, 2 contratti, uno in Turchia e uno in Russia, dei quali uno in Russia spaventoso. Guarda, per coerenza, Matteo, con la scelta fatta rispetto ad Avellino. Matteo, posso capirti assolutamente, perché io ho fatto la scelta di allenare Milano perché vivevo qui e amo Milano profondamente e sarò sempre riconoscente verso i confronti di Olimpia e verso questa città. Ho rifiutato non 2 ma 5 contratti di quelli che parli te da allenatore nei posti che parli te, anche uno come Spagna, 2 Spagna e 2 Russia, l'altro non so neanche dove, ma neanche parlando dei cifre, neanche parlando dei perché non volevo lasciare la mia famiglia, la crescita dei miei bimbi, ho scelto di lasciare da parte le mie ambizioni magari personali, non solo da allenatore ma anche da qualcos'altro, fuori e stare vicino alle mie bimbe che hanno bisogno di avere il papà presente, la mia moglie che ha scelto insieme a me a vivere qui, quindi cioè per le scelte familiari si fanno le cose tutt'altre, però se io, non so, adesso devo prendere qualche incarico, che non lo farò mai, non so, in qualche squadra che è rivale storico di Milano, sicuramente questo amore e relazioni con Milano finiranno, e quindi questo gioco è così. Vai a Varese Cantù, eccolo, eccolo uno, guarda, quindi lo sappiamo, l'hai detto te, tutte le società come si vivono, questo sport come si vive, è anche bello per quello, perché ci sono queste emozioni che ti danno gli spalti pieni, la gente che ti riconosce, che ti stringe la mano e che fino a una settimana ti vedeva come un signor allenatore, il miglior allenatore del mondo, l'agente di Avellino, e continua con quelle, se mi posso permettere di darti un consiglio, come una persona più giovane di te, continua con quelle belle emozioni che hai avuto da Avellino fino a una settimana fa, 10, e poi per l'altro non puoi cambiare. Comunque, signori, io sono libero, se volete mandarmi in Russia vado, eh. Palla spicchi. Ecco che torniamo con una domanda di Flavio per Matteo Bonicioli. Sì, intanto gli sottopongo anche un messaggio, così almeno Cristian da Carpi ti faccio, dice, e mi faccio un augurio da virtussino, riconquista quest'anno l'Eurolega, e quindi questo è il benvenuto della Virtus per Matteo Bonicioli. Matteo, come hai trovato questa squadra? Come sono stati i primi giorni di lavoro? Ricordiamo ancora con Paron Tonino Zorzi. Ma diciamo, è chiaro che ho trovato un ambiente un po' depresso, perché voi sapete meglio di me, Sale lo sa meglio di tutti cosa significhi vivere e allenare a Bologna, due sconfitte, due bellissimo storie, comunque possono... bellissimo. Io infatti sono rido dalla mattina alla sera, ma voglio dire, al di là di questo, due sconfitte inaspettate sia nel punteggio, soprattutto quella di Pesaro, che provocano cattivo umore, però voglio dire, io credo che in questo la squadra è una, secondo me è una buona squadra, che Renato Pasquali mi ha lasciato in buone condizioni fisiche, questo purtroppo è un mestiere difficile, io sono stato esonerato nell'altra parte di Bologna per aver vinto un derby, per cui voglio dire, per quanto so che lui in questo momento stia male, so che passerà e so che arriveranno per lui altri incarichi importanti, però voglio dire, adesso si tratta secondo me di continuare a lavorare serenamente. È chiaro, ogni allenatore ha le sue idee rispetto a come la propria squadra debba giocare, probabilmente io e Renato abbiamo idee diverse, che non significano migliori una e peggiore l'altra, ma semplicemente diverse. Dopodiché è chiaro altrettanto che una squadra come questa, allestita secondo me molto bene, con ruoli coperti in tutte le posizioni, dovrà immediatamente cominciare a giocare secondo il suo valore, insomma. Cos, buon lavoro. Grazie molto e un saluto a Sasha. Un saluto in bocca al lupo. A prestissimo. Salutami Dušan. E si parla di Dušan Vukčević, direi. messaggi in bottiglia, insomma. Fabrizio, provincia di Como. Eccomi qua. Eccoci, dica. Io sono un po' in ritardo, stavate parlando di Vitali. Io volevo parlare di Vitali. Ma torniamo a farlo. Va bene, volentieri. Non sono molto d'accordo su quanto ha detto il coach, anche se lo stimo moltissimo, pur odiandolo moltissimo, perché ho passato da ex giocatore del giovanile a Varese e insomma, soprattutto dall'inizio degli anni 80, ci ha fatto molto molto soffrire. Sì. Il fatto che Vitali sia immaturo può anche darsi che sia così, può anche darsi che non sia pronto, però vale moltissimo giocare a Madrid, perdere giocando, che fare 100.000 allenamenti. Sì. Quello che diciamo Fabrizio è che certamente imparerà Vitali a fare playmaker, a fare forse ci voleva anche un altro tipo di giocatore simile, no, per dargli una mano in quella situazione, tatticamente parlando. Guarda, io posso dire solo una cosa: non è niente sbagliato nella quella partita persa con Real Madrid, peccato per il risultato, nel senso, si perdono e si vincono partite in maniere diverse. Poi sono la gente che, io dico, è sempre molto, molto più facile essere il generale dopo la battaglia che prima o durante. Quindi è facile per noi qua diventare i generali e dire le nostre, o il coach, come l'ha detto lei, a dire la sua, immaturo. Vitali viene giustamente in una grossissima squadra, in un grossissimo ambiente, dopo i vari anni a Montegranaro, dove ha fatto vedere il suo grandissimo talento e personalità, è arrivato anche in nazionale. Quindi questa è la piazza giustissima per lui. Prego, Vitali, ti fai avanti, ti fai valere come lo sai fare, sicuramente la società ti darà fiducia, i tifosi anche, nessuno può essere né arrabbiato né puntando il dito contro di lui, ma abbiamo parlato solo perché c'erano dei dettagli della partita, ma assolutamente non è lì il problema, non lo sarà. Lui quando entrerà in forma sarà un rinforzo grandissimo per Milano, sono sicuro che lo sapranno usare benissimo, perché il giocatore di questa secondo me fisicità straordinaria ce ne sono pochi in Europa, veramente può far differenza con la sua statura, con tutto, quindi avanti per questa strada assolutamente. Poi anche la garra, Vitali è uno con la faccia tosta, è uno che ha la faccia giusta, Vitali. Assolutamente, c'ha personalità, anche c'ha per l'impatto con Milano, Sasha. Anche sì, ma io sono d'accordissimo, anzi sono, ripeto, assolutamente d'accordo con questa super scelta di Milano e gli auguro in bocca al lupo a Luca, di lasciarlo alle spalle già subito dopo la partita, non pensare più, andare avanti per la sua strada e per quello che gli dice il suo allenatore, perché è quello che gli deve importare. Chiudiamo con Dragan da Brescia, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, volevo salutarvi tutti voi in studio. Sì. E fare a un grande campione come Sale, mio paesano, un bocca al lupo e chiedere due domande se possibile. Sì, certo che è possibile. Come no, ciao Dragan. Ciao Sale. Volevo chiederti cosa mi dici di Partizan Belgrado, dove può arrivare nella Lega, nella Coppa e per la nostra squadra, penso per la nazionale, come la vedi in futuro? Mm-hmm. Grazie. Sì, Partizan è una certezza. Partizan c'è una cosa che non ha nessuna squadra nel mondo in questo momento, e lo dico magari non conoscendo tanto bene l'Argentina, che mi può essere su questi livelli qua, però non credo che abbiano un ambiente di questo livello. Quello che è Bombonera nel calcio, questo sta diventando, anzi lo è, Pionier nella pallacanestro. Quello che non l'hanno vissuto possono solo immaginarselo. Io mi auguro che cominciate a prendere questi appunti, i ragazzi, la gente che piace pallacanestro, turisti, che prendete un city break o qualcosa e andate a vedere una partita di Eurolega di Partizan e vedere come vive un palazzo questo legame con la propria squadra. Una squadra fatta da tantissimi talenti, tantissimi giocatori giovani, ma già buoni con certa esperienza, perché già da giovani gli si dà la chance di giocare, se la prendono, prendendo critiche, prendendo tantissimi allenamenti duri, crescendo insieme a tutto l'ambiente, tutto il meccanismo che è già stato costruito. Prenderanno tanti insegnamenti da parte di coach Wojcik, che è un allenatore perfetto per sviluppo di un giocatore di qualsiasi età, però soprattutto di uno giovane con talento. E in questo momento hanno lasciato in ultimi 2-3 anni un certo giocatore del livello di Pekovic, in quale io sono innamorato, e secondo me è il giocatore il 5 con non so, più talento, sì, più con futuro, più talento, il miglior numero 5 di Europa in questo momento, che gioca al Panathinaikos, esatto, con Obradovic. E quindi adesso toccherà a Tepic, che è un playmaker con una maturità enorme per l'età che ha, Tripkovic, tiratore pazzesco, e per me un giocatore che stimo moltissimo, che è un Veličković, numero 4, che può essere veramente devastante anche ai livelli in Europa, e secondo me il suo grandissimo passo dovrebbe essere in una delle squadre come appunto Olimpia Milano, potrebbe essere il suo destino, perché secondo me c'ha la personalità e la qualità di uno di un grande giocatore. Da lì, da questa base, nasce la nostra nazionale, che è l'età di 22 anni più o meno generazionalmente parlando, che è una cosa importante, che siano tutti della stessa generazione, quindi non solo sul campo ma anche fuori campo abbiano le stessi punti di interesse, di riferimento, sì, parlano, sì, delle stesse cose. Una cosa importantissima di crescere insieme e far crescere la nostra nazionale. Coach Ircui ci ha messo le regole senza neanche sudando troppo, perché già con la sua suo carisma e il nome sta lì e non deve parlare di raccontare di troppe storie. No, loro, Sasha, giocano, senti, e faranno... dobbiamo chiudere, io andrei avanti, okay, altre ore, però torni tanto, no? Un'altra volta? Volentieri. Ecco. Più che volentieri. Allora seduta solo aggiornata. Grazie a Sasha Giorgiovic per essere stato con noi, Flavio Suardi, poi in regia Fabio Cantadori e in redazione Gigi Borghi. Un saluto a tutti.